Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat in viaggio verso l'economia sociale, in questa nuova veste che ripropone comunque la metafora del viaggio e del traghettatore insargante che vi parla, verso questa economia sociale, l'economia della sostenibilità, che in questa puntata fa un altro passettino avanti, diciamo, verso gli schemi dell'originalità, perché parliamo della donna. Parliamo della donna, di un certo tipo di donna, quella manager, quella che sta pian piano, forse soppiantando l'uomo al vertice delle aziende. È un po' la paura degli uomini, ma forse per altri è invece una speranza. Sentiamo i temi del sommario di questa puntata. È il tetto di cristallo, ma non ha niente a che vedere con l'inferno, anche se per i manager uomini potrebbe rivelarsi letale. Predicano bene e razzolano in maniera eccellente. Sono le donne le prime sostenitrici delle cause ambientali. E c'è chi rispolvera il femminismo, anche se tinto di verde. Si chiama ecofemminismo e promette di salvare il mondo. Ci divertiamo sempre con il sommario, però questa volta secondo me questi toni accesi, questo sopra le righe che cito sempre perché mi piace tanto, è quanto mai opportuno, perché in effetti parliamo del cristallo, del tetto di cristallo, parliamo delle donne che sostengono le cause ambientali, addirittura di una recrudescenza del fenomeno del femminismo, questa volta tinto di verde. Esistono dei fenomeni in questo mondo al femminile che giustificano anche l'affermazione di poco fa: per alcuni potrebbe essere un problema, per altri invece una speranza. La speranza che la donna, che non ha certo il vizio del sistema di potere ultracentenario che ha corrotto l'uomo, potrebbe essere una chiave, una tu forte e importante per uscire da questa crisi. Ma c'è un pericolo, questo pericolo si chiama tetto di cristallo. Tetto di cristallo, sapete cos'è? È un modo elegante per dire che le donne nella loro carriera lavorativa arrivano in un punto praticamente invisibile, di cristallo appunto, oltre al quale non riescono ad andare. Il cristallo è trasparente e purissimo, sembra quasi che non ci sia, ma una volta che ci sbatti contro, capisci che è forte, invalicabile, e lì ti arresti. Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Lei rappresenta i manager sia maschi che femmine e lo fa fra l'altro avendo studiato attentamente un fenomeno sulla base di una ricerca di cui ci parlerà. Ma prima mi dica, presidente, tetto di cristallo secondo lei esiste ancora? Assolutamente sì. Dobbiamo demolirlo questo tetto, perché non è soltanto un problema di tipo sociale, è anche un problema di tipo economico. Perché dice che ce l'abbiamo? Perché ce l'abbiamo in Italia più che altrove? Assolutamente sì, c'è un fatto culturale in questo nostro paese ed un fatto anche oggettivo. Io parlo del privato ovviamente, nel pubblico la cosa è un po' diversa. Nel mondo privato noi siamo un paese di piccole e piccolissime imprese, queste sono realtà economiche in cui, uso un termine forte, il maschilismo la fa ancora molto molto da padrone. Sono realtà in cui una donna ha difficoltà assolute ad emergere, a dimostrare quanto vale, e questa è una perdita dal punto di vista sociale oltre che economico, come poi mi piacerebbe dire, e probabilmente anche dal punto di vista dell'intraprendenza, che è uno degli elementi chiave per poter riemergere da questa gravissima crisi. Voi come Federmanager, forse probabilmente lei ha voluto questa ricerca mettendo a confronto il punto di vista delle due parti, più di 1000 fra uomini e donne. Questo è quello che lei ha voluto fare per capire di più? Beh, questo è qualcosa che sto facendo da 10 anni veramente. Noi stiamo monitorando in questi ultimi 10 anni il fenomeno e stiamo registrando che forse anche un po' per merito nostro qualcosa si sta muovendo, sempre nel privato parlo, ma è un movimento troppo lento rispetto a quelle che sono le esigenze del paese. Io sono convinto sempre di più che in un mercato globale le imprese debbono essere messi in grado di leggere la realtà del mercato globale, che è fatto di sessi diversi, di religioni diverse, di culture diverse. Allora, questa azienda, che per me è un microcosmo, per renderla in grado di leggere questa realtà, deve avere all'interno donne, culture e religioni diverse. Ecco, questo ancora si fa troppo poco nel nostro paese. Nella ricerca, io leggo la spicciolata, adesso magari le chiedo di approfondire velocemente, le donne guadagnano ancora di meno, un 12% in meno dei colleghi, che tuttavia è già un passo avanti, perché forse fino a poco tempo fa il divario era molto più ampio. Il gap era molto più alto, si sta accorciando, ma è sempre forte e sempre inaccettabile. A parità di condizioni questo non va bene. Va anche detto però, e questo perché dobbiamo essere oggettivi, che in alcune funzioni aziendali, direzione delle risorse umane, formazione, marketing, attività di staff tipo illegale, quando ci sono delle donne a dirigere queste unità, spesso le donne guadagnano più dei maschietti. Quindi questo significa che mettiamole in condizione di accettare la sfida e dimostrano che sono più brave. E questo è anche quello che dimostrerebbe, ha dimostrato Fortune 500, che ha fatto una ricerca a cui dimostra che il rendimento dei titoli, quindi parliamo di aziende quotate in borsa, è più elevato quando il management è al femminile. Assolutamente sì, qui parliamo di manager posti a livello di consigli di amministrazione addirittura. Io sto parlando di donne in posizioni gestionali, però lo confermo, le donne sono molto più concrete, sanno leggere con più profondità la realtà in cui operano, sono essenziali, non si perdono in discussioni spesso tipiche dell'altro sesso. E sa perché? Perché quando finiscono un mestiere ne cominciano un altro. Io dico sempre che le donne hanno una, come dire, una capacità di progressione lineare rispetto a quella che invece è, la, come dire, è il vizio, la deformità intellettuale degli uomini, che si muovono spesso in maniera orizzontale, no? E quindi sono più bravi a fare le cose. Un altro dato interessante: le donne è vero che guadagnano un po' di meno, però se andiamo a vedere sui benefit, quelli veri, quelli importanti, la previdenza, l'assistenza, negoziano in maniera molto più efficace dei maschietti. Bene, Presidente, grazie. Ci risentiremo sicuramente e mi auguro di poterle riascoltare, che non ci sia anche lì un presidente femmina a questo punto, perché cominciamo davvero a dover riconsiderare l'orgoglio che abbiamo di noi. Scherzo, ovviamente, e complimenti per aver fatto una ricerca che secondo me è importante, perché serve a capire come dobbiamo andare avanti e dove. A presto, Presidente, grazie. Grazie a lei, grazie. Come dobbiamo andare avanti e dove, ci ha provato anche Enzo Ballieri della SDA Bocconi qualche puntata fa di Ferri Botter, il 10 aprile, quando abbiamo parlato, affrontato e descritto la figura del Business Innovation Manager. Anche lì il Business Innovation Manager, da molti ritenuto un punto focale della rinascita dell'impresa, del cambiamento verso i nuovi sistemi economici, anche lì l'approccio al femminile aveva, come dire, particolarmente convinto lo studioso, che ci piace riproporvi, così ci rinfreschiamo la memoria tutti. Noi abbiamo fatto una ricerca che ha coinvolto circa 260 manager e il campione femminile all'interno di questi 260 rispondenti rappresenta circa il 20% complessivamente, quindi è un sottocampione. È anche un po' rappresentativo del fatto che nella popolazione dei manager italiani le donne sono oggi inevitabilmente ancora sottorappresentate, anche se stanno crescendo in termini di numerosità. Ecco, però in questo sottocampione, comparando un po' le risposte del genere maschile rispetto al genere femminile, è emerso che in effetti il sottocampione femminile sembra avere delle attitudini e delle competenze più affini al profilo ideale che noi abbiamo definito di Business Innovation Manager. Questo, diciamo, nella nostra ricerca va a confermare quello che altre ricerche fatte anche sul campo internazionale hanno già dimostrato, cioè che per essere degli innovatori bisogna avere un po' quello che gli anglosassoni chiamano il female approach, cioè una capacità di visione sistemica, d'ampio raggio, anche una certa, come dicevi tu, cociutaggine, un commitment, dicono gli anglosassoni. Determinazione, certo. Che nell'ambito, diciamo, dell'attitudine al management femminile è più spiccata rispetto a quella del management al maschile, che è molto più verticale. Godiamoci questi ultimi anni di prevalenza maschile, perché durerà poco a quanto pare. Allora, abbiamo detto, stiamo viaggiando... Se mi consenti una battuta... Ho detto female approach, non ho detto necessariamente donne. Io sono considerato tipicamente female, colleghi, per chi non capisce bene l'inglese, è approccio femminile, quindi potrebbero anche essere degli uomini che hanno un approccio femminile. Io questo, vengo considerato ovviamente dai miei colleghi un grande innovatore, quindi inevitabilmente dovrei avere un female approach. Quella del female approach potrebbe essere, come dire, una via di fuga per noi uomini. Claudia Bettiol, professoressa Claudia Bettiol, buongiorno. insegna negoziazione energetica ambientale a Tor Vergata, ha scritto dei libri, Cuori Ambiente, perché è un po' la materia di base, anche in cinese tradotto questo libro, ed è presidente di un consorzio su fotovoltaico di ultima generazione. Professoressa Bettiol, questo discorso dell'approccio femminile al femminile la convince? Mi convince moltissimo, perché l'innovazione oggi non è un'innovazione soltanto tecnologica, è un'innovazione di sistema, e lavorando in un sistema complesso, la nostra società è una società complessa, occorre avere una visione globale molto articolata, che è tipica dell'universo femminile, che gestiamo famiglia, lavoro, figli, tutto contemporaneamente, quindi contemporaneamente gestiamo problemi tra loro molto diversi, e questo ci aiuta nella complessità, quindi ci aiuta a innovare nella complessità. Quindi è relativamente valido quello che diceva il presidente di Federmanager, o forse a maggior ragione, la ricerca dimostra che la donna va è lineare nell'approccio, e invece è lineare nell'approccio professionale, ma poi nella vita questo approccio non è tanto lineare, anzi è molto articolato, quindi più complesso, e forse anche per questo che siete più determinate e più coerenti? Siamo coerenti perché una volta definiti gli obiettivi non abbiamo molto tempo per perderci nei dettagli, continuiamo ad avere una visione generale che guida le aziende, che guida la nostra vita, che guida la vita delle società, mentre trovo che l'universo maschile veramente si perde nei dettagli. E perdersi nei dettagli, nella complessità, significa perdere anche di competitività, perché il problema è che i nostri competitor, soprattutto quelli dell'est asiatico, viaggiano a una velocità che per noi è inimmaginabile, quindi o siamo capaci di gestire una complessità oppure risultiamo perdenti. Ma la società dell'Oriente non hanno una cultura femminile, o sì? La società dell'Oriente è una cultura yin e yang, è una cultura che prevede una ciclicità. Quindi prevede che accanto a un predominio, diciamo, del momento maschile, poi subentri il momento femminile. Da noi questo non è tanto così. Primo, perché abbiamo una logica completamente diversa, abbiamo un approccio filosofico basato sulla razionalità, su un predominio della razionalità, che non prevede quindi un'articolazione anche di momenti emozionali, e anzi cerchiamo di ridurre le emozioni, di razionalizzare le emozioni, e quindi è proprio profondamente diverso, mentre l'universo maschile è più vicino all'Oriente, è più vicino alla capacità di avere una visione circolare dell'esistenza, e quindi capire in che modo inserirsi e capire in che modo inventare la vita, inventare la società, inventare i prodotti, inventare un nuovo modo di evolversi. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. E a bordo in questa puntata, avete sentito, abbiamo ancora la professoressa Bettiol della Tor Vergata. Abbiamo parlato dell'approccio femminile nel mondo del lavoro, della managerialità. Forse rimane da aggiungere, professoressa Bettiol, che per quanto riguarda i temi ambientali e dell'energia in generale, ancora una volta forse c'è da registrare una vocazione, una predisposizione, come possiamo chiamarla? Un'attitudine che poi diventa professione. Quando già qualche anno fa, quando io mi trovavo a Bruxelles per conto di alcune regioni italiane, nelle riunioni sulla sostenibilità, allora ancora non si parlava di energie rinnovabili, di efficienza energetica, eravamo più donne che uomini. Poi è venuto naturale passare al pragmatismo, quindi interessarsi della ricerca e delle industrie che si occupano di energie rinnovabili e di efficienza energetica, e secondo me il tema dell'efficienza energetica è proprio totalmente femminile. Perché se ancora quello della produzione può avere dei risvolti maschili, quello dell'efficienza è al femminile. Femminile, perché è la relazione con la società, delle tecnologie con la società, e chi meglio della donna ha idea di come sono le relazioni all'interno della società, all'interno delle famiglie. Quindi è un tema industriale, ma è un tema occupato principalmente da donne. Grazie professoressa Bettiol, noi siamo tutti convinti che sia così, ed è ovviamente importante per la società che sia così. Che siano più donne che... Arrivederci professoressa, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Che siano più donne che uomini, abbiamo avuto la possibilità di verificarlo anche di recente con Caterina Torcia, che è vicepresidente del CSR Manager Network. Buongiorno Caterina Torcia. Buongiorno a lei, anche CSR Manager Vodafone Italia. Durante un convegno a Bologna, Green Social Fest, eravate tutte donne. Ci sembra che CSR Manager, colui a cui è demandata la politica di sostenibilità, di responsabilità sociale dell'impresa, siano donne. E questo a te forse può risultare ancora maggiormente, come dire, forte come impatto, visto che sei vicepresidente di un network che li rappresenta. Sì, Sì, però oggettivamente in quel network indubbiamente le donne sono la maggioranza, però ci sono anche dei, come dire, dei validissimi colleghi uomini con cui facciamo un egregio lavoro, tant'è che, come dire, il consiglio di indirizzo, diciamo, del CSR Network è esattamente composto in maniera assolutamente paritetica fra i due sessi, quindi ecco, c'è una omogeneità. Ecco, per evitare però che la trasmissione possa assumere dei toni un po' troppo frivoli, indubbiamente non stiamo celebrando il privilegio o il primato della donna sull'uomo, ma stiamo dicendo in maniera molto tecnica, l'ha detto all'inizio di questa trasmissione il presidente di Federmanager, sulla base di una ricerca molto tecnica, molto approfondita, che indubbiamente le caratteristiche psicologiche e forse anche fisiche della donna sono più congeniali al momento critico che sta attraversando il sistema economico. C'è bisogno della donna per uscire da questa crisi. No, ma infatti ci arrivavo, nel senso che poi il mestiere della sostenibilità o della responsabilità d'impresa è, come mi capita di dire, in un'accezione un po' frivola, anche un po' motore di cose che non si farebbero mai, e soprattutto vedere le attività quotidiane con una prospettiva diversa a 360 gradi, quindi non più soltanto con una logica numerica di risultato, ma anche di impatto sulla società civile più ampio. In questo senso, indubbiamente, come diceva chi mi ha preceduto, la sensibilità femminile dovuta al suo vissuto quotidiano familiare e culturale è ovviamente più incline a far emergere degli aspetti a cui probabilmente non si sarebbe pensato. Ma poi faccio degli esempi concreti, non so, l'attenzione ad esempio alla gestione dei rifiuti sotto le mura domestiche, non so se è stato quello che, come dire, mi ha fatto continuare in Vodafone a sostenere con forza l'attività di recupero dei telefoni ai nostri punti vendita, ma fatto sta che ne abbiamo portati a casa 30 tonnellate, forse sì, adesso devo verificare se c'è una corrispondenza fra le tonnellate che faccio a casa è probabile, e che abbiamo fatto in azienda. È probabile, infatti no, la mia riferimento alla frivolezza era riferita non a quello che stavi dicendo tu, ma a quello che alla trasmissione, che ha questo tono effettivamente a tratti un po' irriverente, ma bisogna ammettere, bisogna, chi lavora come noi, anch'io mi ci metto come giornalista, come osservatore in questo mondo, che avete una marcia in più su quando si tratta di razionalizzare, quando si tratta, no, di ottimizzare. Questo sicuramente, ma come dicevo è anche un po' un tema di vedere a tutto tondo il lavoro anche quotidiano, e quindi fare più cose contemporaneamente, e quindi essere un po' la voce della coscienza e un po' motore, come dicevo, di iniziative, di idee che altrimenti probabilmente non verrebbero nemmeno prese in considerazione. A questo poi aggiungiamo una certa forza e ostinazione nel portare avanti l'obiettivo. All'inizio di questa trasmissione abbiamo parlato del tetto di cristallo. Secondo Giorgio Ambrogioni esiste ancora questo ostacolo? È così anche secondo te? Guarda, io non credo, io credo che poi, o meglio esiste, ma nella misura in cui biologicamente c'è comunque una differenza tra uomini e donne, quindi è un tetto che ciascuno di noi si costruisce poi, quindi non è un tetto che qualcun altro ci mette sulla testa, e quindi si costruisce in base alla sua esperienza personale, ai bisogni della sua famiglia, della comunità in cui vive, e quindi io credo, ripeto, che probabilmente c'è un tetto, ma è un tetto che ci costruiamo noi da sotto. No? E quindi non è un tetto opprimente imposto da qualcuno. Bene, questo è una visione di noi. Ecco, è un po' il contraltare di quello che diceva il presidente Federmanager, la dimostrazione che stiamo praticando territori che sono, come dire, traballanti dal punto di vista della rigidità, anzi sono elastici da questo punto di vista. Grazie, esatto, di aver partecipato, in bocca al lupo e buon lavoro, visto che dovete sobbarcarvene la maggior parte a vantaggio nostro, di noi maschietti che ci riposiamo finalmente. Grazie Caterina. Grazie a voi. Beh, c'è anche, come dire, ci può essere un'altra faccia della medaglia ancora, un po' più ruvida, vogliamo dirla così, un po' più rigorosa, è quella del femminismo. Forse molti di voi che ascoltano ricorderanno i fenomeni del femminismo, quando la donna doveva digrignare i denti per farsi ascoltare. C'è una, che vogliamo chiamare recrudescenza, forse solo una marcord, un recupero, e questa volta non poteva che essere ovviamente verde questo recupero. Ecco l'ecofemminismo di radiodelledonne.org. Ecofemminismo, una parola composta da altre due, ecologia e femminismo. Ma che cos'è? Per capirlo, la rivista Marea ha fatto un numero speciale intitolato proprio Vandana e le altre. L'ecofemminismo salverà il mondo? Vandana Shiva è una scienziata, una fisica indiana, femminista, che per prima ha messo in connessione l'allarme planetario della globalizzazione e l'allarme planetario dell'ambiente. La sensibilità femminile è, si dice, molto più sviluppata di quella degli uomini, o perlomeno della maggioranza degli uomini, rispetto alla salvaguardia dell'ambiente. Ma è proprio così? E la politica delle donne, quella degli anni 70 in poi, ha tenuto in conto i problemi ambientali? Questa era una parte di una trasmissione di radiodelledonne.org che sono sicuro che adesso vorrete andare su internet ad ascoltare, perché incuriosirà molto. Anche Marina Migliorato, forse, CSR manager dell'Enel. Buongiorno Marina. Buongiorno a voi. Insomma, sentire parlare di femminismo, ancorché eco di Vandana Shiva, globalizzazione e ambiente, evoca, come dire, fantasmi, vogliamo chiamarli così, di rigidità politica. Ma alcune cose dette però sono vere, cioè la donna per esempio è effettivamente una particolare sensibilità. Tu ti riconosci in quello che hai sentito? Ma sì, assolutamente sì, io credo tutte le donne che ci ascoltano, spesso ridendo con amiche dico che non è un caso che il Padre Eterno abbia affidato alle donne il compito di far sopravvivere la razza umana, è proprio perché le donne hanno questa idea dentro, questa tensione verso la protezione della specie, e loro sono più sensibili, senza ombra di dubbio, a quelle che sono delle questioni che non sono soltanto di ecologia, ma che riguardano anche l'etica in generale. Le donne in genere si spendono sempre di più per il bene comune, hanno il bene comune sempre molto presente anche nella propria dimensione, non solo privata ma anche professionale. E poi la ragione per cui molte volte anche a livello manageriale le donne sono considerate un fattore di molto importante dentro le aziende. Ci sono diversi studi internazionali che parlano del ruolo delle donne nelle varie compagnie internazionali, nell'industria in generale, come un ruolo che assicura il fatto che si mantenga il bene della collettività, in questo caso il bene della io ho una teoria da questo punto di vista che è la seguente, forse non è neanche tanto originale, ma insomma l'uomo ha sempre dominato, ha sempre gestito il potere, quindi è per definizione corrotto e comunque è stato sempre minacciato dalla corruzione. La donna, proprio perché fino a pochi decenni fa ha vissuto, diciamo così, sulla seconda linea, è immune da questo baco, diciamo, ed è per questo che la donna è in realtà molto più onesta, ma anche la cronaca giudiziaria, voglio dire, gli scandali, la corruzione, quasi mai mette al centro la donna, questo è un dato di fatto. Ma io credo che anche gli uomini abbiano una grande dimensione etica. Devo dire che non sono d'accordo per esempio con la nuova presidentessa dell'Islanda, che dice che il paese, che l'Islanda è stato rovinato da un eccesso di testosterone dei turbocapitalisti, che mamma mia, la salvezza nelle mani delle donne. No, credo che invece recuperare un giusto bilanciamento, quello che si dice le pari opportunità all'interno delle carriere, all'interno del la gestione del potere, quindi un bilanciamento dove insieme gli uomini e le donne possano contribuire secondo una propria dimensione del femminile e del maschile al bene pubblico, è un fatto importante, è un fatto che viene anche studiato a livello economico, che viene studiato forse un po' di meno a livello sociale, ma che forse può essere una, come dire, un punto che aiuti questa società, soprattutto in questa uscita dalla crisi economica mondiale, a trovare un equilibrio che, rispettando la diversità di genere nel senso più vero del termine, aiuti anche l'umanità, uomini e donne insieme, a pensare a fare a costruire un mondo migliore. Quando si sarà stancata di fare il CSR manager dell'Enel, io prevedo una bella carriera politica per Marina Migliorato, che ringraziamo. Scherzo, ma forse neanche tanto. Grazie Marina di aver partecipato, perché è sempre il tempo tiranno per voi che lavorate così intensamente. Grazie anche, arrivederci Marina. Grazie anche a Danita Panizza in redazione per la solita attenzione, e a Carmelo Lauricella alla regia. Vi ricordo che Ferri Botte, i suoi imbarcati verso l'economia sociale, potete riascoltarli sul sito di radio24.it. Grazie, arrivederci.